abusiva. Radio Plaza. Radio Plaza, intermittente ultrafonica a servizio di nessuno. Eh sì, l'avete capito, è una nuova puntata di Radio Plaza, oggi ancora una volta a sostegno della campagna del movimento Genuino Clandestino, sì. Questa volta siamo dove? Siamo a Cusano Mutri e siamo allo 00 Lab, ne parleremo a brevissimo di questa cosa. Infatti Peppe si è sentito chiamare, perché chi è Peppe? Allora, parliamo prima di chi è Radio Plaza, per quelli che ci stanno ascoltando in questo momento qui dal vivo, dallo 00 Lab a Cusano Mutri. Spiegheremo quindi, Radio Plaza è una radio estemporanea che compare in piazza normalmente e poi svalvola per un paio d'ore, scappa via e nessuno più la può ritrovare. Non è vero, perché in realtà ci si può ritrovare in questo momento dal vivo qui, dicevamo, a Cusano Mutri allo 00 Lab. Ci si può ritrovare online sul blog collettivoutopia.noblogs.org. Sì, dove potete trovare tutte le puntate precedenti a questa puntata qui, dal vivo, dallo 00 Lab. Che cos'è? Ma dal vivo è tutta un'altra cosa. Che okay. Cos'è? Ce lo dirà subito tra un attimo il protagonista di questo esperimento. Ma intanto ricordiamo che oggi siamo di nuovo con Genuino Clandestino, con il mercato contadino agroecologico, per costruire reti economia e relazioni solidali. E diamo il benvenuto a Peppe dello 00 Lab. Buonasera Peppe. Buonasera, Peppe Petrillo. Grazie a voi. Allora, benvenuto Peppe. Quali sono le domande fatidiche che possiamo fare a Peppe, allora, per intrattenerci un paio di minuti? Facile, facile, facile. Chi sei? Cosa fai? E perché lo fai? Chi sono? Sono Giuseppe, per gli amici biondo, dai. Biondo. E sono, diciamo, il gestore di tutta questa combriccola di pazzi. Per chi non la vede, questa combriccola è bellissima, è colorata, è piena di bella energia, quindi venitela a vedere dove. Sì, ma è un bel luogo complicato. In via dei Bersaglieri a Cusano Mutri, provincia di Benevento. E che cosa fa questa combriccola, Peppe, insieme a te? Diciamo che è un'idea che avevo da anni, di creare uno spazio mio in primis e tra virgolette nostro, perché è diventato uno spazio aperto, diciamo, a tutti. Per fare in primis cultura e non, qualcosina, diciamo, di culturale in un paese. Beppe, questo è uno spazio all'aperto che, in cui ho visto un po' di attrezzi, cioè una bella area attrezzata. Ci puoi spiegare più o meno quello che succede, che succedeva o che succederà qui? Diciamo, l'idea era quella di fare uno spazio veramente aperto per bambini, per diversamente abili, per chi non ha, diciamo, oggi non ha un posto dove un po', cioè siamo diventati un poco tutti cresciutelli, quindi abbiamo anche difficoltà a collocarci all'interno di sistemi un poco. E quindi l'idea era proprio quella di creare uno spazio per noi e per i bambini e ripeto, per i diversamente abili. E poi alla radio non si sente, ma c'è un odore. Che sta succedendo qui intorno? In questo periodo è periodo di funghi. Ne approfitto per invitarvi alla Sagra dei Funghi, che si farà a fine mese. E stiamo cucinando appositamente dei funghi per questa serata. Grazie mille, okay. Peppe, grazie. Noi vi invitiamo, ricordiamo di nuovo il posto, Peppe, per noi che siamo un po' pure forestieri. Anche dando dei contatti, magari, dove si possono avere delle informazioni su quello che succede qui. Doppio Zero Lab, anche su Facebook, Instagram, Cusano Mutri, provincia di Benevento. 00 Lab, lo ripeteremo alla fine, 0 alla millesima volta Lab, qui a Cusano Mutri. Grazie. Ringraziamo Peppe per questo intervento illuminante. Anche per me. Perché lui va un po' di fretta, va di fretta verso il bar, verso il bancone. E intanto però ne approfittiamo perché abbiamo un'incursione così all'improvviso. C'è un'amica, allora noi l'abbiamo appena conosciuta, ci ha raccontato di un progetto che ha, ci sembrava molto bello, però ce lo devi raccontare bene. Francesca, benvenuta. Questi, per chi ci ascolta per la prima volta, sono i famosissimi fuori programma di Radio Plaza, quelli che preparano una scaletta e la scombinano 5 minuti prima di iniziare la puntata. E quindi, allora, ripetiamo a tutti quello che è il nostro indirizzo internet su cui si possono ascoltare le vecchie puntate di Radio Plaza e anche questa in diretta in questo momento. Quindi se volete invitare qualcuno che si trova, che ne so, a Bolzano o a Copenaghen, ma anche a Sydney, perché internet è in tutto il mondo, allora girate a San Lorenzello, anche magari a Sessaurunca, certo, anche qua, a Sessaurunca, però a San Lorenzello o a Fossa Magnana, com'era? Magna Fossa, Massa di Ferro, di Faicchio, Massa di Faicchio. Allora, il sito è a Radio Plaza. Il collettivo è. Il sito è. No, l'indirizzo. collettivoutopia.noblogs.org. collettivoutopia.noblogs.org. Tutto trovate quasi sempre lì. Francesca. Salve a tutti, grazie, mi presento, mi chiamo Fran Allen Zimmerman, sto presentando il mio progetto Istrada, che è l'Urlo di Istrada. È nato 2 anni fa, sono scesa in strada, volevo fare un esperimento sociale e quindi è nato poi il progetto, che è quello di agire attraverso la poesia, ed è per me l'unico modo per in qualche modo agire in maniera sovversiva, avvicinando anche i bambini alla poesia. Quindi, diciamo, è un gioco sporco sociale per me, perché è un modo per in qualche modo per crescere in maniera libera, e l'unico modo per me è la poesia. Quindi sono qui con questo progetto, che è nato insieme al collettivo Disobbedienza Creativa. Siamo più o meno una decina di ragazzi sparsi per l'Irpinia e per il Sannio. Anche lì scendiamo in strada e improvvisiamo azioni sovversive contro le istituzioni. Quindi una poetessa sovversiva qui a Radio Plaza, una radio incredibile, imprevedibile, imprendibile e inconciliabile. Quindi vogliamo dare un esempio della tua azione, così tanto per capirci. Sì, ho scritto proprio oggi qualcosa, non so quanto tempo ho a disposizione, ma fermatemi. Hai 30 secondi. Ok, ho visto i migliori alberi della mia generazione distrutti da una ferrovia in costruzione. Ho visto autobus sgarrupati col fumo dal culo interrompersi sul sì, viaggiare, certamente viaggiare, non morire gentilmente con strappi al motore evitando le buche più dure, il cui amore è asfaltato dall'istituzione, il cui amore è Moloch, il senza amore, il cui amore è un flusso insicuro di mobilità verso case popolari, il cui amore è dimenticanza, il cui amore è perciò biglietto non obliterato. Ho visto finestre abbassarsi le mutande in piena resa climatica contro l'aria condizionata. La chiamavano estate, sì, estate violenta, violenta, infiammata, una costante cervicale. Ho visto fiumi pisciati da fabbriche scorrere lungo boschi privatizzati con pagamento all'ingresso di un incubo vegetale negato a famiglie sottopagate. Ho visto cinghiali sparati in faccia sullo stesso terreno in cui vivono protetti, animali destinati al macello. Ho visto anche dei gabbiani felici rincorrersi, innocenti, su discariche a cielo aperto e annidarsi su parcheggi di ferraia selvaggia, Moloch, disillusione, rotola verso sud. Ho visto madonne in marmo, soffocate da metalli pesanti in festa dispersi nell'aria, ali spezzate per un pugno di vita artificiale. È questo che siamo, Moloch, bruttura. Perfetto, aprimi, grazie Francesca. Francesca, scusami, ripetiamo di nuovo per chi volesse conoscere meglio il progetto e il collettivo, i contatti, come vi possiamo raggiungere? Allora, in questo momento con Fran Allen Zimmerman, che porta in strada il progetto Urlo di Strada, e con Disobbedienza Creativa, che però non è sul social. Aspetta, ma io lo volevo in versione poetica. In versione poetica? No, sto scherzando. Ripetiamo i contatti per quelli che non hanno sentito quando io mi sono introdotto. Fran Allen Zimmerman e Disobbedienza Creativa. Grazie mille, Francesca. Grazie per questa incursione a Radio Plaza, piacevolissima. Grazie. Musica. Radio Plaza. Other people live their lives on the minimum wage. rage. I was the one that couldn't cope and let it turn to rage. Now I'm looking down the barrel playing against the game. For the bad times I cannot be acquitted or let off as the bullet enters my head. For the good times I wish for 5 minutes in heaven before the devil knows I'm dead. For the bad times I cannot be acquitted or let off as the bullet enters my head. For the good times I wish for 5 minutes in heaven before the devil knows I'm dead. I'm dead. E questa è Radio Plaza. Quello che abbiamo ascoltato è 5 Minutes di Dalle Sac versus Scroobius Pip dall'album The Logic of Chance. Chance? The Logic of Chance. Come si legge qua? Vabbè, come questi lo vuoi vengono... leggere tu? Sì, questi come vengono dall'Inghilterra, un brano che viene dall'Inghilterra del 2010. E piccola curiosità rispetto a questo gruppo: si è sciolto dopo 8 anni di attività nel 2014. E ora passiamo quindi al programma della giornata. Cosa andremo a raccontare oggi? L'intervista a 00 Lab, che già l'avete ascoltata. Poi ci saranno le reti alternative del cibo. E poi Napoli anni 80, il racconto di Bostic dei contropotere. I consigli da breviario di resistenza alimentare. Genuino clandestino, aggiornamenti dal prossimo raduno intergalattico in Toscana con una telefonata dritta dritta in Toscana a Radio Contado. Aggiornamenti dall'Hack Meeting e Genuino Clandestino. E poi si mangia. E per chi volesse mangiare bisogna prenotare gli gnocchi o cavatelli, non si è capito che stanno combinando, allo stand, anzi al banchetto. In diretta qui Radio Plaza dallo 00 Lab qui a Cusano Mutri. Questa sera una serata speciale. Andiamo avanti col nostro programma musicale, che prevede in questo momento Silvania Dos Santos, una cantante originaria di Recife o Recife del nord-est del Brasile. Silvania Dos Santos si laurea in canto jazz presso il Conservatorio di Verona e vanta collaborazioni con noti artisti della scena internazionale e italiana. Dal 2014 collabora con il polistrumentista Giancarlo Bianchetti e nel 2015 pubblicano il CD Nos con 7 canzoni rivisitate di autori della musica popolare brasiliana, con particolare interesse alla musica del nord-est brasiliano. E allora ascoltiamola, questa voce fantastica, a me piace tantissimo, la consiglio. Il brano che vi proponiamo è Va morar como diabo di Silvania Dos Santos dall'album Nos del 2015. Radio Plaza. A nega lá em casa não quer trabalhar. E se a panela tá suja, ela não quer lavar. Quer comer engordurado, não quer cozinhar. E se a roupa tá lavada, não quer engomar. E se o lixo tá no canto, não quer apanhar. E pra varrer o barracão, eu tenho que pagar. Se ela deita de um lado, não quer se virar. A esteira que ela dorme, não quer enrolar. Quero agora um Cadillac para passear. Ela quer me ver bem mal, vai morar com o diabo que é imortal. Ela quer me ver bem mal, vai morar com sete peles que é imortal. Ai meu Deus, ai meu Deus, o que é que há? Ai meu Deus, ai meu Deus, o que é que há? A nega lá em casa não quer trabalhar. E se a panela tá suja, ela não quer lavar. Quer comer engordurado, não quer cozinhar. E se a roupa tá lavada, não quer engomar. E se o lixo tá no canto, não quer apanhar. E pra varrer o barracão, eu tenho que pagar. Se ela deita de um lado, não quer se virar. A esteira que ela dorme, não quer enrolar. Quero agora um Cadillac para passear. Ela quer me ver bem mal, vai morar com o diabo que é imortal. Ela quer me ver bem mal, vai morar com sete pele que é imortal. Ai meu Deus, ai meu Deus. A nega lá em casa não quer trabalhar. E se a panela tá suja, ela não quer lavar. Quer comer engordurado, só quer cozinhar. E se a roupa tá lavada, não quer engomar. E se o lixo tá no canto, não quer apanhar. E pra varrer o barracão, eu tenho que pagar. Se ela deita de um lado, não. Radio Plaza. Il cibo, ormai dal XIX secolo, ha svolto e continua a svolgere un ruolo chiave nel garantire la stabilità dell'accumulazione capitalistica su scala mondiale. Negli ultimi 30 anni le reti alternative del cibo sono emerse dalle contraddizioni che hanno segnato la fine del regime industriale alimentare, basato sull'agricoltura intensiva e sulla creazione di nuovi mercati per i capitali euroamericani. Oggi invece il regime attuale si basa su una divisione globale del lavoro che obbliga i poveri del mondo a nutrire i ricchi, sia nelle nazioni capitaliste più avanzate, sia nelle economie emergenti del sud, attraverso un sistema di commercio, quello dei supermercati, che ha rivoluzionato l'approvvigionamento alimentare. In cambio delle calorie prodotte in massa che dal nord raggiungono ancora i quattro angoli del pianeta, le regioni ricche ricevono quantità sempre maggiori di carne, pesce, frutta e verdura tramite filiere altamente specializzate che garantiscono il rifornimento degli scaffali 24 ore su 24, 7 giorni su 7. In questo regime il capitale finanziario acquista un'importanza sempre maggiore, in parte grazie al ruolo svolto dalle catene commerciali multinazionali. Sì, questo regime da una parte si fonda sui cosiddetti imperi del cibo, in cui la terra e il lavoro necessari per portare il cibo dal campo alla tavola sono sempre più soggetti all'autoregolazione dei mercati. Dall'altra ha visto la nascita di gruppi di persone che hanno unito le forze per contrastare questa mercificazione, che prende la forma di costi più elevati e prezzi più bassi per gli agricoltori, allarmi per la sicurezza e le condizioni sanitarie degli alimenti per i consumatori e un ambiente inquinato praticamente per tutti. Due ambiti sono caratteristici delle contestazioni: la sovranità alimentare e la sostenibilità ambientale. Coltivare e consumare il cibo come sono stati abituati a farlo i paesi industrializzati dalla Seconda Guerra Mondiale in poi non è più possibile. Non è più possibile che ci sia una distanza sociale tra agricoltori e consumatori. Il cibo deve ritornare ad essere importante anche per la costruzione di reti sociali. Deve ritornare ad avere un ruolo di primaria importanza all'interno delle società e deve ritornare alla natura. Le produzioni intensive allontanano il cibo dalla sua origine, che è nella natura. Infine, proprio attraverso un rapporto diretto e naturale è possibile svelare le conseguenze negative dell'ossessione del mondo moderno per i prezzi bassi e la convenienza. Il cibo non può più essere rappresentato come una merce e basta. All'interno di reti alternative, certo, si possono individuare almeno due tipologie di approccio. Alcune realtà si concentrano sulla diffusione di specifici prodotti di qualità a prescindere dal sistema di approvvigionamento, comprendendo perciò quelli convenzionali come i supermercati. Altre realtà invece cercano di costruire sistemi di approvvigionamento etici per i prodotti alimentari più in generale. Dietro l'idea di rete alternativa del cibo si celano dunque due possibili interpretazioni: reti del cibo alternativo e reti alternative del cibo. Le due interpretazioni sono di per sé frutto di una tensione fra mercato e società. We'll be right back. ogni speranza diventata. Guai a voi, anime bravi, non mi sperate mai di vederlo cielo, divenne nelle piani profondi, l'alto e l'inverno, e tu, che sei questo mondo, partiti da questi che sono morti. Ma poi che vide che io non mi partiva, disse, per altra via. Per altri porti verrai a piangere, non puoi passare, il vero legno con i denti di porti, e il tuo saluto. Bye. bentornati a Radio Plaza. Siamo qui in diretta dallo 00 Lab di Cusano Mutri in occasione del mercato autogestito agroecologico di Genuino Clandestino Campania, con tutti i vari ospiti. Anna, cosa volevi dire? Voglio dire che siamo anche su collettivoutopia.noblogs.org, per chi non lo avesse ancora capito. collettivoutopia.noblogs.org, lì trovate tutte le informazioni riguardo al collettivo Utopia, che è un collettivo apartitico politico. È un collettivo fantastico. Svariato della zona del Nolano. È un collettivo e basta. E basta. Andiamo avanti. Quello che abbiamo ascoltato era... Quello che avete ascoltato. Noi l'abbiamo ascoltato, anche noi, anche perché l'abbiamo proposto. Quindi lo abbiamo prima ascoltato per poi proporlo. Non indietreggiare. Questo era il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Plaza. Il brano è dei Contropotere. Che tu conosci, Anna, i Contropotere? Li sto conoscendo adesso. Eri piccola. Vabbè, ero piccola, che significa? Cioè, chi è più piccolo di me li conosce. Figurati. Allora, questo era Non indietreggiare dei Contropotere, dall'album Nessuna speranza, nessuna paura del 1988. Ero piccola. Eri piccola. Un anno dopo il primo scudetto del Napoli, nel 1988. Però la festa per lo scudetto del Napoli me la ricordo, eh. Sì, era molto punk la festa dello scudetto, del primo scudetto del Napoli. Era tanto tempo fa, era il 1988. E i Contropotere, in un periodo di vita a Bologna, pubblicano il loro primo LP dal titolo Nessuna speranza, nessuna paura. In un periodo di vita a Bologna. Vabbè, i Contropotere si trovavano a Bologna quando pubblicano questo primo album dal titolo Nessuna speranza, nessuna paura, uscito per l'etichetta bolognese Attack Punk Records di Giampi Velena, nome tutto un programma, e dei Rough Punk. Il disco, contrariamente agli standard del genere, vede brani anche di 7-8 minuti con sperimentazioni ritmiche, sonore, atmosfere e melodie orientaleggianti. Le hai ascoltate le melodie orientaleggianti? Ho visto che aveva che c'erano 7-8 minuti di brano anche in questo caso, con parti di pianoforte e buzzucchi. Napoli. Quando tornai era mutilata, molti erano confluiti nella lotta armata, mancavano riferimenti, gli anziani erano finiti in galera o nell'eroina. Così un giorno andai alla riunione del Louis Michel a Montesanto. Il primo tentativo lo facemmo alla centralina di Montesanto. Dopo mezz'ora arrivò la polizia con il direttore dell'azienda trasporti. «Guà ragazzi, c'è il controllore, fate vedere i biglietti!» Non finirono nemmeno la frase che cominciarono le mazzate. Un altro tentativo fu fatto alla sanità. Là arrivò direttamente la camorra, mazzate, pistole. Poi ci segnalarono un edificio in via Arno. La prima notte restammo a dormire in 50 e respingemmo il primo tentativo di sgombero della polizia. All'epoca esisteva lo scontro fisico. Arrivavano, cercavano di rompere il catenaccio, di entrare. Oggi lo scontro è politico, dialettico. Allora invece no. Io non so oggi perché la gente occupa. Allora non c'era un movente politico, era un movente umano di disperazione. O te ne andavi dalla città, o ti facevi le pere, o soccombevi. Ma se prendevi una via così estrema, cioè decidevi di vivere in quella maniera, fuori dalle regole, con un'indole quasi animale, allora a un certo punto avevi bisogno per sopravvivere di avere uno spazio tutto per te. Altrimenti morivi o ti facevi, era semplice, quasi banale, non era frutto di studi. Era la possibilità di vestirti come cazzo volevi, sentire e organizzare concerti che nessuno ti faceva, o ancora peggio c'erano posti che accettavano la nostra controcultura, chiamiamola così. Ma poi ci giudicavano, ci guardavano come una banda di alcolizzati di fuori di testa. I primi 2 anni furono i migliori. Quel posto lo chiamavamo non CSOA, come si usava allora, ma COCA, Centro Occupato di Cultura Autogestita, per mettere il fuoco sulle controculture. Eravamo fieri di non essere catalogati come politici. E questo è un estratto dell'articolo Un posto tutto per sé, Gli anni 80 e il romanzo del Tiananmen da Napoli Monitor su Radio Plaza. Radio Plaza, frequenze dinamitarde. Passiamo avanti al prossimo punto in programma su questa puntata speciale qui dallo 00 Lab di Cusano Mutri e vi parlo di Michael? Michael Pollan è un giornalista, scrittore e professore di giornalismo all'Università di Berkeley. Ha scritto il suo breviario di resistenza alimentare nel quale si chiede cosa ci fa bene e cosa ci fa male quando siamo seduti a tavola. Decenni di nutrizionismo, dibattiti, diete e consigli che degli esperti non sembrano aver risolto questa questione. Anzi, mentre i nostri scaffali si riempiono di cibi pratici, economici, studiati apposta per rispondere alle più avanzate esigenze salutistiche, la nostra salute risente sempre più di problemi legati all'alimentazione. E il New York Times scrive in questo modo: con questo divertente e arguto manualetto potrete tranquillamente buttare via tutti i libri di dietologia in casa vostra. Ecco alcuni dei suoi consigli letti tutti d'un fiato. Mangiate cibo vero, non mangiate niente che la vostra bisnonna non riconoscerebbe come cibo. Evitate prodotti con ingredienti che nessun essere umano normale terrebbe in dispensa. Ecco, per esempio il solfato di ammonio, la gomma xantan, il propionato di calcio, additivi chimici che difficilmente troverete dal contadino. Evitate cibi con ingredienti che un bambino di terza elementare non riuscirebbe a pronunciare. Evitate i cibi che fingono di essere quello che non sono. Esatto, pensate ai latticini, come la margarina. I latticini senza grassi, senza panna e in definitiva senza latte si possono ancora chiamare latticini? E che ne dite delle bistecche e delle salsicce senza carne, quelle fatte con la soia? Mangiate solo cibo che va male. Cioè che si perde, come diciamo noi qua da queste parti. Mangiate cibo i cui ingredienti esistono in natura. Mangiate solo cibo cucinato da esseri umani. Mangiate cibo che proviene dalle piante, non dagli impianti. Se l'avete acquistato dal finestrino della macchina, non è cibo. Se ha lo stesso nome in tutte le lingue del mondo, non è cibo. Mangiate soprattutto vegetali, in particolare le foglie. Sì, addirittura gli scienziati dicono che i vegetali probabilmente fanno benissimo, ma sicuramente non fanno male. Mangiate a colori. Molte delle sostanze che danno colore alle verdure, i fitochimici antiossidanti, proteggono dalle malattie croniche. Bevete l'acqua degli spinaci e mangiate come i francesi o i giapponesi o gli italiani o i greci. Esatto, consumate quindi cibo tradizionale, fatelo lentamente e in compagnia e il vostro corpo vi ringrazierà. Mangiate per fame, non per noia. Esatto, considerare il cibo come antidepressivo è molto rischioso. Ascoltate la vostra pancia e mangiate lentamente. Sì, infatti un consiglio è appoggiare la forchetta nel piatto tra un boccone e l'altro. Gustate un cibo per lo stesso tempo che è stato necessario a prepararlo. Non fate il pieno agli stessi distributori in cui lo fate alla vostra macchina. Cercate di non mangiare da soli. Esatto, cercate di non mangiare da soli, cioè in macchina, sul posto di lavoro, davanti alla TV. No. Non va proprio bene. E poi di tanto in tanto trasgredite a queste regole. Un jour viendra le corps tassé, les parchemins sur nos visages. Ceux qui racontent la vie passée, tous les succès et les naufrages, et nos mains qui tremblent au vent, comme des biggins au pas léger, continueront de battre le temps sous des soleils endimanchés. Un jour viendra, on fera vieux os, des bégonias sur le balcon, un petit air de calypso, photo sépia dans le salon. Malgré la vie, le temps passé, malgré la jeunesse fatiguée, personne ne pourra empêcher nos corps usés de chalouper. Chalouper, chalouper. Chalouper, chalouper. Chalouper, chalouper. Avant que le printemps se fasse automne, que l'on s'éloigne de la rive, on scratchera du gramophone quelques ritournelles caraïbes. On s'épuisera sur le dance floor en de petits pas économes, tant que sera levé le store, nos palpitants seront métronomes. Elles me reviennent les années folles, quand on mourait seulement de rire. Oh, rappelle-toi du Malecon, le clapotis de nos souvenirs. Un jour viendra cette ritournelle, quand ma voix se sera envolée. Je te supplie en souvenir d'elle de continuer à chalouper. Chalouper, chalouper. Chalouper, chalouper. Chalouper, chalouper. Allora, quello che abbiamo ascoltato era, vediamo un po' se lo dico bene, Chalopé di Gaël Faye. Questo dillo come vuoi, perché non sappiamo come si pronuncia. L'album è L'Undi Méchant, scritto con la CH, e del 2020. Questa era una richiesta della nostra carissima amica Elisa, che vogliamo salutare se... casomai ci sta ascoltando in questo momento. È la vita in France. A Lille. Lille. I francesi parlano strano. No, sono bellissimi. Andiamo avanti con il nostro programma Radio Plaza. Oggi, che giorno è oggi? Non l'abbiamo proprio oggi detto, è tutta la puntata. 17 settembre del 2022. Radio Plaza continua a seguire la campagna di Genuino Clandestino, una comunità in lotta per l'autodeterminazione e la sovranità alimentare, un movimento con un'identità volutamente indefinita, una comunità in continua costruzione che diffida di gerarchie e portavoce e non richiede nessun permesso di soggiorno o diritto di cittadinanza. Fiero di essere clandestino, porterà avanti le sue lotte e la sua esistenza con o senza il consenso della legge. Genuino Clandestino è un movimento antirazzista, antifascista e antisessista. Genuino Clandestino quindi si prepara in questo periodo al prossimo raduno intergalattico in Toscana, che si terrà il 7, 8 e 9 ottobre del 2022. Ne parliamo a Radio Plaza con ne parliamo diretto, lo dovremmo avere già collegato. Vediamo parliamo se ci sente, vediamo se ci facciamo sente. Facciamo finta che c'è il suono del telefono, drin drin drin. Tu. No, questo era un suono vecchio, eh. Tu. C'è Palmiro e c'è anche la dama, se ho capito bene. Buonasera. Tu. Buonasera. Sì, sì, malissimo, ma sentiamo. Abbiamo viva voce. Avete il viva voce. Ah, e togliamo ecco questo viva voce, che forse è meglio. E allora noi... va bene, oh, ciao amici. Wow, questa sì che è una voce radiofonica, ragazzi. Avete detto tutto voi, non diciamo più nulla. Possiamo riattaccare. No, comunque. Ma che, ma ciao che... Palmiro, grazie. Dovete dirci un sacco di cose. Dovete dirci un po' del programma, dello stato dell'arte, della preparazione di questo raduno intergalattico. Chi ci sarà? Qualche anticipazione, qualcosa di simpatico, qualche inciucio simpatico. Cosa mangeremo? Come ci piace a noi. E poi soprattutto come contattarvi se qualcuno, chi ascolta Radio Plaza in questo momento, vuole sapere come avere notizie da voi. Insomma, come vi raggiungiamo? Guarda quante cose ancora ci devi dire. Allora, vabbè, siamo preparati. Molto bene. Noi no, noi non tanto, però. Vabbè, allora ci istruiremo su questo intergalattico di ottobrino. Va bene, allora, per chiunque ci voglia contattare, per avere informazioni, sapere un po' come si svolgeranno questi tre giorni dell'intergalattico, può contattarci a crclarons@autistici.org. La ripetiamo? crclaronze@autistici.org. Oh, adesso sì che era chiara. E vabbè, proseguendo, introduciamo un po' il programma, ve lo spoileriamo un po'. Dai, siamo pronti. Da tre giorni, vabbè, inizierà venerdì 7 ottobre, un po' tra Mondeggi e Piazza Tasso, in cui a Mondeggi si svolgerà comunque l'accoglienza delle prime persone che arriveranno, delle diverse realtà che parteciperanno. A seguire poi vabbè ci sarà il pranzo condiviso e ci sarà un'iniziativa nel pomeriggio, visto che casca il venerdì in cui la comunità di resistenza contadina, ovvero il nodo fiorentino di Genuino Clandestino, fa il mercato a Firenze in Piazza Tasso, nei pressi di Porta Romana. E ci sarà la presentazione di un libro verso le 5:30 di Contadine si diventa di Laura Castellini, sempre al mercato, e poi ci sarà uno spettacolo teatrale sempre in Piazza Tasso verso le 9:30, no, a Mondeggi, che si intitola Semis, storie di un potere invisibile. Uno spettacolo di una compagnia teatrale, di cui ora non mi sopraggiunge il nome, perdonatemi, che fa uno spettacolo sui semi e creerà anche un momento di dibattito dopo lo spettacolo su tutta quella che è la questione appunto delle royalty sui semi e diciamo anche dello scambio semi, della liberalizzazione anche dei brevetti. A seguire, vabbè, dal giorno dopo sarà una giornata super intensa perché sabato 8 ottobre tutto si svolgerà a Mondeggi. Si inizia a lavorare alle 9 del mattino, dalle 9 alle 13 tavoli tecnici per tutti i gusti, orticoltura, allevamento, viticoltura, seminativi, apicoltura, erboristeria, eccetera, eccetera, eccetera. Al mercato. Poi ci sarà pranzo a base, insomma, ovviamente di prodotti contadini perché non possiamo servire altro. Ecco, noi aspettavamo queste notizie, ovviamente. Questa pranzo tutti buoni prodotti genuini, ovviamente reperibili nella nostra provincia di Firenze e Toscana, a meno che qualcuno da qualsiasi altra parte del mondo e d'Italia ci voglia portare delle buone leccornie. Ma noi ci adopereremo per farvi assaggiare le primizie toscane. A seguire ritorna invece il momento impegnato ancor più del mattino, perché dalle 14:30 alle 17:30, oltre a se c'è bisogno, qualche tavolo tecnico ha bisogno di qualche ora in più per continuare a confrontarsi, ci sono ben tre tavoli tematici barra politici. Li teniamo a sorpresa o glieli mettiamo? No, no, mettiamogli. Anticipare, perché okay. Vede una partecipazione non solo di contadini, bensì di altre realtà con cui insomma stiamo lavorando tantissimo in questi ultimi mesi sul nostro territorio, insomma anche da un anno a questa parte. Uno dei tavoli è autodeterminazioni e manifesto GC, perché come avete detto voi, Genuino Clandestino è un movimento che si basa sull'autodeterminazione alimentare, ma non ci basta più solo quella, noi vogliamo autodeterminare proprio tutto il territorio, tutte le cose che facciamo. E quindi vorremmo entrare nel profondo con i genuini clandestini per capire come migliorare o come modificare il manifesto, il principio, che altri valori massimi poterci mettere. Poi ci sarà un tavolo, il denaro come se la gente contasse qualcosa. Ah, sì, vabbè, questo già tavolo, il diciamo, titolo è esplicativo. Per definire, sarà un tavolo tematico e forse anche, diciamo, per metà tecnico, che affronterà quella che è la costruzione del prezzo equo tra la speculazione e la possibilità di quelli che sono i beni pari. E sarà un tavolo tematico che verrà costruito insieme a MAG Firenze, ovvero la mutua autogestita di finanza critica di Firenze, un gruppo con cui anche noi di Genuino Clandestino stiamo interagendo da un anno a questa parte, anche per capire tutta la questione, diciamo, dei soldi, soprattutto a livello emotivo, e come creare dei circuiti economici che non vadano per forza ad accrescere quello che è il capitale. Successivamente, vabbè, questo lo lascio a te. C'è un tavolone, insorgiamo per il futuro, un'agenda condivisa verso l'autodeterminazione dei territori. Noi stiamo lavorando tantissimo in questo periodo insieme alla GKN, insomma una fabbrica che è in presidio permanente ormai da più di un anno, e l'Assemblea Ecologista Toscana, e quindi noi, Genuino Clandestino, Mondigi e loro ci confronteremo per dare avvio, insomma, a una serie di momenti durante questo autunno barra inverno che speriamo sia molto vissuto e molto di rivolta, di insorgimento, come si vuol dire, insomma, perché abbiamo bisogno di fare un po' di rete, quindi nomi che non si trovano in tutti gli altri di Genuino Clandestino, appunto di GKN, Assemblea Ecologista, tutti, insomma, messi in realtà che stanno iniziando a lottare insieme, e ci sembrava, insomma, doveroso a Genuino Clandestino ospitare questi dibattiti e confronti. Poi ci sarà l'intervento di Mondeggi, bene comune, perché c'è bisogno di sviscerare la situazione attuale, che non è proprio delle migliori, una plenaria condivisa, e dopo arriva il bello, cena contadina ovviamente, e dalle 22 musica. Grande musica. Quindi lascio a lui. Tanta musica dal vivo, avremo un amico bolognese che si chiama Klepto, cantautorato bolognese. E poi abbiamo invitato Tartaglia Neuro, Andrea Tartaglia, un artista campano, per l'appunto, classico di quelle parti lì, insomma. E sarà una bella serata, stiamo organizzando comunque delle giornate veramente impegnative in cui si prospetta che molte persone, anche molte realtà, parteciperanno, perché come si parlò all'ultimo intergalattico che si era svolto in Irpinia qualche mese fa, era quello anche di rendere accessibile e molto più aperto a tutte quelle realtà che non facessero parte solamente di Genuino Clandestino. Vi sentiamo super organizzati e super entusiasti, arriva un'energia fortissima fino qua giù. Per forza, perché se no soccombiamo con tutto quello che c'è da fare. Però non ci dite proprio tutto, lasciateci qualcosa in sospeso, così almeno per capire cosa succederà poi lì, no? Se ci dite tutto. Vabbè, anche voi. Vabbè, ma ancora in realtà è tutto una sorpresa, perché... Vabbè, in sospeso vi lasciamo quella domenica 9, vi diciamo solamente che questo si svolgerà invece allo GKN, in presidio permanente, con il portato contadino, che tantissimi altri appuntamenti. Aspetta, non abbiamo sentito benissimo, non si è sentito bene, visto che ci sembrava molto importante, ce lo ripeti? Vi diciamo solo che la domenica 9 si svolgerà praticamente tutto l'incontro della domenica 9 alla GKN a Campi Bisenzio, questa fabbrica in presidio permanente, che ospiterà sicuramente il mercato contadino e tante altre iniziative, sia più di ragionamento che più musicali che più divertenti. Allora io direi, ripetiamo l'appuntamento, ripetiamo i contatti e poi ci vediamo tutti dalle vostre parti. Che ne dite? Allora, l'appuntamento è per da venerdì 7 a domenica 9, accoglienza da venerdì 7 a Mondeggi o per chi vuole passare verso le 17.30 al mercato in Piazza Tasso a Firenze. E per qualsiasi informazione basta scrivere a crclaronde@autistici.org. Benissimo, benissimo, non vediamo l'ora di rincontrarci, di abbracciarvi, allora. Di abbracciarvi. Faccio un ultimo appunto. E a breve comunque inizieremo a uscire con i comunicati ufficiali e i volantini dell'evento, e tutto potrà essere trovato insieme al programma completo, con tutti i tavoli, tutte le iniziative che ci saranno, su genuinoclandestino.it. Genuinoclandestino.it. Benissimo, benissimo. Allora aspettiamo. Allora salutiamo Palmiro e la dama da Firenze. Sì, noi siamo, vogliamo... noi non siamo loro a Firenze, noi da Napoli, noi da Cusano Mutri. Adesso noi siamo Firenze. Noi siamo da Firenze. Ciao. Quindi li salutiamo, li abbracceremo poi dal vivo, speriamo, a Firenze tra il 7, 8 e il 9. Speriamo di fare anche questo abbraccio tra radio, Radio Wombat, Radio Plaza, Radio Contado. Certo. Ci aspettiamo per una diretta radio la domenica. Va bene, dai, ci organizziamo. Questa cosa ce l'organizziamo tra di noi, ovviamente. Noi abbiamo capito, si è capito. Lasciamo così. E vi salutiamo e ci vediamo prestissimo. Grazie. Grazie a voi, ciao, ci vediamo presto su. Ciao. Ciao, allora infatti quello che si è capito e non si è capito, quello che stavamo dicendo, è che Genuino Clandestino sarà seguito la sessione di ottobre 2022, 7, 8 e 9 ottobre 2022, sarà seguita da Radio Contado, che è un programma che va in onda su Radio Wombat, per chi non avesse capito, diciamo così. Radio Musica, Radio Plaza. Vai in musica. Faccio io? Cosa ascoltiamo? Wow! Prossimo brano, aprite le orecchie. Aprite bene le orecchie per sentire chi canta e chi... Vabbè, allora, un brano dal 1900... Ma questi sono esperimenti, dai! Esperimenti, vabbè. Dal 1900... sociali. Esperimenti solidali. Allora, solidarizziamo con Marino Marini... Dall'album Marino Marini e il suo quartetto, 1959, questo è il brano che vi proponiamo, Io sono il vento. Io sono il vento. Sono la furia che passa e che porta con sé, che nella notte ti chiama, che pace non ha. Son l'amor che non sente pietà. Io sono il vento. Se t'accarezzo non devi fidarti di me. Io non conosco la legge che guida il mio cuore. Son l'amor, la passione d'amor. Qualcosa c'è in me più forte di me. Sono l'aria che talora sospira e che al sol del mattino più dolce si fa. Son la furia che improvvisa s'adira e che va, fugge e va, dove andrà non lo sa. Io sono il vento. Sono la furia che passa e che porta con sé. Ho traversato il deserto cercando di te. T'amerò, era scritto così. Qualcosa c'è in me più forte di te, più forte di me. Thank you. talora sospira e che al sol del mattino più dolce si fa. Son la furia che improvvisa s'adira e che va, fugge e va, dove andrà non lo sa. Io sono il vento, sono la furia che passa e che porta con sé. Ho traversato il deserto cercando di te, t'amerò, era scritto così, qualcosa c'è in me, più forte di te, più forte di me. Radio Plaza! Radio Plaza! Radio Plaza! Quanti ne vuoi? Ne faccio a migliaia. Radio Plaza, oggi 17 settembre 2022, siamo qui allo 00 Lab di Cusano Mutri in diretta su collettivoutopia.noblogs.org in compagnia del mercato contadino autogestito agroecologico di Genuino Clandestino Campania. Abbiamo fatto un po' di telefonate, abbiamo parlato un po' di varie storie, abbiamo ascoltato un sacco di bella musica. Bellissima, gente che ballava a un certo punto. Ah, gente che ballava. Bella musica. Sulla sempre, musica bella. Sempre soggettiva la bella musica. Comunque, andiamo all'ultimo punto in programma. Qual era l'ultimo punto in programma, Anna, dell'indice che abbiamo letto all'inizio? Facciamo uno, questo quiz, diciamo, in diretta. 10, 9, 1. 1, 10, 9, 11. 11, ah, 11. Scusa. Sì, era... abbiamo ancora un ospite, abbiamo ancora un ospite al tavolo, quindi andiamo. Ok, lo introduco io. Allora, Genuino Clandestino, per chi non lo sapesse, rivendica radicalmente il diritto alla contadinanza, ovvero alla cura del territorio attraverso le coltivazioni agroecologiche e permaculturali. Invece, Hack Meeting è un movimento antagonista che utilizza strumenti altrui in modo non convenzionale e crea hardware e software free ed open source per la giustizia sociale. Per chi ne volesse sapere di più, andate su Hack Meeting, meeting scritto con due E, hackmeeting.org. Tra queste due realtà, che hanno molti aspetti in comune, si sta creando uno spazio di confronto diretto per lo scambio di pratiche e saperi. E per questo però non ne parliamo noi oggi, ma ce ne parla oggi a Radio Plaza di questo incontro il nostro ospite, Diorama. Ciao. Buonasera, Diorama. Buonasera a tutti. E allora, cosa ci racconti in merito a questa sinergia tra Hack Meeting e Genuino Clandestino? Ciao a tutte e tutti che ci ascoltano. Io in realtà qui porto un po' la voce di questa ibridazione tra Genuino Clandestino e Hack Meeting, e recupero quello che è stato scritto su un sondaggio, piccolo manifestino voglia di fare, che troverete a fare.vado.li, che è proprio un sito. Voi andate sulla barra degli indirizzi e scrivete proprio fare.vado.li. Non è uno scherzo. Non è uno scherzo. Fare.vado.li. Questa cosa nasce da alcune persone, sia di Genuino Clandestino che di Hack Meeting, da un confronto sullo scambio di rispettivi saperi e modalità di approccio a vari temi che ci accomunano tra questi due, chiamiamoli movimenti se volete, come la transizione ecologica, la critica alla tecnologia come soluzione calata e imposta dall'alto, anche detta Tecnofix. Il problema della licenza dei semi, degli OGM, i brevetti nel mondo del lavoro, eccetera. E l'intenzione era un po' provare a fare qualcosa adesso, ibridare i due approcci di Genuino Clandestino e Hack Meeting con qualcosa anche nel concreto adesso, per esempio autocostruzioni di macchinari per produzioni medio-piccole, divulgazione di progetti, documentazione, recupero di tecniche meccaniche che poi si erano anche perse con la storia, come maltatori di benefici, eccetera. Provare a favorire lo sviluppo di cooperative anche locali e in generale facilitare nuovi progetti agricoli, agroecologici con licenze libere a codice aperto e con metodologie auto-organizzate, modulari, orizzontali. Insomma, cercare quella che è la convergenza tra la svolta ecologica, il lavoro e le confederazioni orizzontali. Io qui praticamente ho letto quello che trovate su fare.vado.li, l'ho leggermente interpretato. A questo link troverete anche un sondaggio e anche un modulo di contatti che a cui vi invitiamo a scrivervi, tutto rigorosamente free, open source, libero, a codice aperto, che non vi rubiamo i vostri dati. Libertà. E quando volete siamo assolutamente felicissimi di fare una chiacchierata insieme e di fare insieme. Fare.vado.li. Questa che avete ascoltato era la voce di Diorama, l'ennesimo antiprogramma che Radio Plaza ha sempre in serbo per voi, perché Radio Plaza programma se stessa ma sprogramma allo stesso tempo se stessa, invitando chiunque trovi a passare. C'è un cane che passa, vogliamo invitarlo a parlare? No. Ok, allora andiamo avanti quindi con il nostro programma. Questa è Radio Plaza. E infatti l'unica cosa che non sprogrammiamo è la musica. E allora adesso ci andiamo ad ascoltare un discorso elettronico punteggiato da Field Recordings and Samples, pescati a strascico dal profondo delle loro sensibilità oriento-occidentali. Mamma mia, che presentazione! Mazzola. Attraverso una densa rete di riferimenti personali e sociali. Ora, se il brano non è all'altezza di questa presentazione, non possiamo più mandarlo. Il brano che ascoltiamo è The Birds Discuss the Journey di Saint Abdullah e John Butcher dall'album Mechanical Filtrations del 2019 su Radio Plaza. Radio Plaza fino all'ultima nota. Una volta specialissima di Radio Plaza. Puoi sempre. Posso adesso? Puoi. Allora, volevo fare una menzione precisa e soprattutto molto, molto sentita per i sottofondi che noi abbiamo sotto le nostre voci e sotto le voci degli altri, che di solito non citiamo. E non ci diamo nemmeno, non ci diamo prima o poi ve lo faremo, okay? Ve li faremo conoscere tutti, sì, questi sottofondi. Pubblicheremo le nostre scalette dove Ma ci sono tutti i titoli però, dei poi questi per esempio sono i Six Toys. Bene, Six bene, Toys, sì. Non è la prima volta che stanno su Radio Plaza. Dicevamo, così come è invece la prima volta per chi? Perché? Soprattutto perché? Non è, allora, è sempre la prima volta Radio Plaza. Allora, per tutti quelli che ci stanno ascoltando adesso, che ci ascoltano da anni, e anche per quelli che l'hanno fondata Radio Plaza, è sempre la prima volta. È sempre la prima volta ed è sempre sprogrammata, lo dicevamo prima, no? Programmiamo continuamente. Una nuova incursione a Radio Plaza, perché dopo nessuno ci pagherà mai. Qui a 00, è vero, hai ragione, a 00 Lab, dopo di noi ci sarà un concerto, ci sarà musica dal vivo. E ovviamente... Musica. Aspetta, sgomberiamo il campo. Aspetta, facciamocelo dire direttamente da chi. Chi è che farà musica stasera? Sta vicino a te. Non è una domanda, facciamocelo dire direttamente da chi. Non è una domanda. Da chi suonerà stasera? E accanto a te chi è? Chi sei? Chi siete? Che cosa farete stasera? E poi ci salutiamo. Allora, presentazione del gruppo, quindi come si chiama? Proprio didascalico. Tu come ti chiami? Io mi chiamo Gian Lorenzo. Gian Lorenzo, sì. È tutto un programma. Sì, si chiama Gian Lorenzo. E Gian Lorenzo suona? No, è canta. Vero, sì, ah, okay. Suona, obiettivamente. E quindi cosa, Gian Lorenzo? Allora, sì. Allora, Gian Lorenzo fa parte di un gruppo musicale che si chiama... Lack Observation. La conservation. Lack Observation. Ah, Lack Observation. Sì, che è un lago. Io l'avevo semplificata. Siamo la conservation. Trappani. Che è un lago su un'isola, su un lago in Quebec. Esiste. Quindi diciamo il lago dell'osservazione. Sì, si chiama così. Per quelli che non parlano inglese, chiaramente. Quindi sì, lago invece osservazione. Tu invece che lo parli. Lack Observation. Esatto. Okay. E oggi siamo un duo, ma spesso non lo siamo. Siamo un quadruplo, un quartetto. Quartetto? Sì. E oggi siete metà. Un doppio duo, visto che siamo al doppio zero qua. Ogni tanto ci sdoppiamo. Noi abbiamo detto 00 Lab, ma il è doppio 00 Lab. Vabbè, un fan India, tanto doppio duo. Doppio duo e oggi solo duo. E suoneremo dei pezzi... sull'unità ultima di tutte le cose. Wow, ed chiarissimo, è partita la musica proprio su questa unità, no, ultima di tutte le cose. L'altra curiosità è, allora, se siete in un duo, quindi siete in due. Sì. E quindi l'altra persona sarebbe, chi è? Lucia Sole. Sì, sì. E anche Sole. È Luce Sole. Era una luminaria, diciamo, una festa di paese luminosissima. Lucia Sole suona? Lucia Sole suona la sega musicale, lo shalmai, la tastiera d'aria e lo shalumeau. Allora, quale volete sapere per prima? No, ma io lascerei tutto all'immaginazione. O comunque, per chi volesse, venite qui a vederli. Tra poco. O comunque prendete nota, Lack Observation. Noi siamo in diretta su collettivoutopia.noblogs.org e lui è Gian Lorenzo. E lei è Lucia Sole. Lack Observation. Segnatevi questo nome perché un giorno... Ne sentirete parlare, vabbè, questo si dice sempre, non si sa mai qual è il giorno, però intanto ne abbiamo sentito parlare adesso. Noi sentiamo anche la loro musica, li ringraziamo per questa incursione quasi forzata all'interno di Radio Plaza. Grazie Gian Lorenzo, è stato veramente un piacere sprogrammarci con te. E quindi quindi ci siamo veramente, siamo arrivati alla chiusura di questa puntata, come si diceva, ancora una volta speciale, specialissima di Radio Plaza di 17 settembre 2022, Radio Plaza Cusano Mutri, Radio Plaza 00 Lab, Radio Plaza su collettivoutopia.noblogs.org. Sì, una puntata specialissima qui dallo 00 Lab, che è un posto fantastico, molto interessante, all'aperto, molta natura, molta aria buona, fa anche un po' freddo questa sera. E c'è il mercato contadino di Genuino Clandestino Campania, prendete appunti, prendete contatti. Genuino Clandestino, il prossimo appuntamento è 7, 8 e 9 ottobre a Firenze, per chi ci volesse andare. Qual era il contatto? crc@ non ve lo ricordate, non avete preso appunti, perché lasciamo perdere. Genuino Clandestino, digitate su quel maledetto motore di ricerca. Non riusciamo a lasciare i microfoni stasera. Che ci succede? Non riusciamo a completare questa puntata. Abbiamo finito. Radio Plaza finisce qui con l'ultimo brano, L'acqua è poca dei Blue Staff, dall'album L'acqua è poca del 1994. Radio Plaza! Caccia brucia fronte e non si cambia più, faccia grazie San Gennaro, pensaci tu e mette c'è la maratona. Perché l'acqua è poca e a papera non galleggia. Lascia sanità, a me mi pare nu casina ad che città, e mette c'è la maratona. Perché l'acqua è poca e a papera non galleggia. Sordo un ce ne stanno, c'è sta magna, a guaglione malassata che da già passata, e mette c'è la maratona. Perché l'acqua è poca e a papera non galleggia. Uè, ma che stufida sta massa de Perù, dille a invocare i san sempre piangi. L'assistenzialismo pute dimentica, la festa è finita, le dura minga, andate a paura. San Gennaro bella, non da spaventà, e formata lava e miracoli sai fa, e mette in c'è la maratona. Perché l'acqua è poca e a papera non galleggia. Uè, barbù, ma allora che parlo l'ostro god, piccole palle piene venne anche a pesnacot. Il federalismo c'ha palla decisione, basta la pacchia, tutti i ladroni, ma vada via. C'è pavimma stu gragnana, non mi san gennare, niente c'è la maratona. Perché l'acqua è poca, l'acqua è poca, se l'acqua è poca, e a papera non galleggia.